Ma no, è femme, ne hai? Prova in femme. Passa da noi in femme, a dire. Noele. Noele. Noele. Ma bande laterali non ne hai qua? Come? Sì, aspetta, no, ma non ho capito. Bande laterali qui non ne hai. Ma stai usando un apparato omologato, dai oggi se li senti. Ah, ecco, adesso ho capito. Adesso ho capito. No, io sto usando un finale di potenza, cioè. Sto usando un finale di potenza valvole, capito? Lo so che mi senti, ma ho difficoltà a tirare fuori te, capito? Non puoi alzare appena appena è facile. Sì, non riesco, allora, ti ho sentito un pezzo del passaggio, no? Però non riesco a capire quello che stai dicendo, capito? Cioè, aspetta. Ora, stai appena, eh? Anche io non ho più aspetto di maschietti. Allora, vediamo un pochino, non si può mettermi un punto più alto? Non riesco a capire, ho detto non si può mettermi un punto più alto. Allora, ho capito che stai usando un apparato omologato, ma voglio capire, ma sei in macchina oppure sei in casa? Sei in macchina, ok. No, certe volte quando ti avvicini al microfono lo sento quello che dici. Certe volte mi manchi, prova a parlare. Ecco sì, adesso ti ho sentito un po' più alto. Ecco, adesso ti sento. Adesso inizio a sentirti, come mi ascolti? Tieni presente che sto usando un finale di potenza valvola all'uscita, è un po' particolare, non mi senti? È ok. No, ma anche io ti sento bene. Anche io ti sento bene, adesso va bene, cioè, dove ti trovi? Mi senti stesso? Ma quando stai usando il finale, no, ti solo con la radio. Lo so, sto pompando qua, guarda, sto pompando, aspetta che provo a pompare, aspetta non mi senti più, così è senza, e così è agganciato, capito? Se no vuoi il negativo, mi senti? Aspetta, ma dimmi una cosa, ma vedi la manto qua tu? A te che se qualcuno capisca. Avanti ti vuole entrare? Avanti ti vuole entrare? Boh. Sì, buonasera, felice amico. C'è tu il punto distante, un attimino, eh. Ho fatto un po' vecchio. Bisogna rischiare un attimino. Ma stazione fisica o per macchina? Io sì. Ne avevo sentito ultimamente. C'erano parecchie offerte, poi vabbè. Sai, mi prendi il lavoro, non è che ho tutto questo tempo. Non è che tutto quanto questo tempo, in radio entro su di me, la sera, tanto non sto uscendo più perché, insomma, da quando mi sono sposato appunto, non ci trovavo più. Va bene, fate sapere, vediamo un pochino come gira la situanza. Vabbè, l'antenna, perché non te la metti su una mantova lì, capito, un'antenna buona. Vabbè, la 15.000 è sempre la 15.000. Beh, quella già te lo volevo di andare, poi anche una buona, non c'era un bravo di dubbio, Ora, te lo volevo di andare, per il tutti andati, e via. Noi lì su, in quella ruota ci siamo ogni tanto, la sera, ci sentiamo, ci siamo un po' tutti, capito? Sì, Alghero non ce la fai a sentirlo, eh. Alghero sta, no, non ce la fai, non paragonare la mia posizione, la mia potenza con certe questioni. Sono troppo distanti da me, capito? No. È tutta un'altra cosa. Non sentirai mai quindi. Ma manco se ti metti le piene al genio. È difficile che le ascolti, capito, Gioia? Sono in posizioni critiche. Avanti, prego. Oh, già, Franco. Tu neanche a Gioia, buonasera. Da Franco, vediamo un po' se ascolti Franco di sentirlo. Franco da Castro, avanti, Franco. K, l'ho salutato, l'ascolto basso però. Ciao Gioia, se mi ascolti, Franco. Ho sentito il primo passaggio, poi l'altro l'ho perso. È difficile, io lo stavo spiegando. A poco si è passato tutto a te. Ai piccoli, poi basta. Così via. Buonasera, sentissimo, se mi rimango, sono stato in gioco, qui la fiesta. Il naso, vediamo un po' maggio. Ma non paragoni tagliati da meno, siamo ai due estremi. Guarda che da qui a Cagliari ci sono 240 km, così, ma stai scherzando, e poi per Cagliari io sono completamente negato, ho una cantena montuosa davanti, Papà, sì che ti ho copiato, Joel. basso, ma già riesco a tirarti fuori. Niente, boh, non so neanche da che zona modulava, già. Lui ha scritto. Ci ha messo tutto. Ora scritto, ci ha messo appena fatto da questa. Io sto spiegando quello, io sono quello. È un macello, sta arrivando per i miracoli. Appunto. Boh, io non so neanche se... Vabbè, lì già mi ascolta letto. Vediamo un po'. Hai appena ritirato il video a controllo. Sì, ti ascolto. Ascolti, Franco. Ma l'ascolto basso. Aspetta un attimino che mi accordo. Io ti ascolto. Le zone contano. È importante. Io comunque taglio che lo sento. Sento che è Scalaplano, il ragazzo di Scalaplano, vivo il treno e sento, e poi sento quello che è vicino alla cosa sua, a TV. Vediamo se mi ascolta adesso. Mi ascolti, Gioele? Ah, da te. Cos'è detto? Qualcuno che? Illuminativo, qual è? Vabbè, secondo me il finale del motore è alto. Comunque, se, vediamo se lo si chiede Scalaplano. Avanti, tra. Prova adesso, Gioele, se mi ascolti. Prova, 1, 2, 3, prova. Adesso segnale 3 e radio 5, fra. Kappa. Ma io non riesco a tirarlo fuori, lo sto amplificando di 7 dB, ma non riesco a tirarlo fuori, la radio è troppo bassa. Ok. Segnale 3. Aspetta, mi scudo da cazzo, punti. Dimmi un po', come ha successo questo? Allora, normalmente sei 4 su 5, buona la modulazione, Motorola Bartel, scusate, Motorola Bartel, è un apparato americano, capito? Sto provando un po' di tempo, e sembra che ti vada bene. Non sentite cosa è detto? Sì. Questo praticamente ha inserito una priorità di fino a 1.200. No, è un apparato, lo sai cos'è? Un GPMS di cui fungono palleggiabili, no? Che ha un suo razzo praticamente con un sperimentatore. E simile, cosa si può spiegare? Come dimensioni, ha un videolettore, un apparato simile a... ma è 30 per circa 15, da 30 per 14. No, quello l'avevo già... Avevo pensato di questo, capito? Quello è bello. Quella è una bella macchina. Quindi sono qua con Franco, non c'è problema. Vai, non ti mettere così. Avanti, Franco. Sì, ciao, sono Joel. Vabbè, già ci sentiamo dopo se rientri. Qualche cosa già riesco a tirarti da fuori. Giova, questa è una M, sempre con la parecchiola. Sì, ti sto sentendo. No, non mi piace l'emissione di questo finale. Non mi piace, io l'ho sempre compresso. Senti compresso addirittura? No, per riesco, con un rumore sopra me, non forte ma che. Questo, adesso del vento. Sì, però, aspetta, quella specie di rumore che c'è sotto, ce la vedi anche prima quando è passato nella modulazione. Quindi presuppongo che c'è un ritorno delle frequenze del microfono. Tolgo io, voglio dare le cuffie, aspetta. No, tu non dici che male già così facendo lì. Guarda, adesso sono staccato senza le cuffie. Okay. Ancora? È strano, eppure non lo devo fare. Aspetta. Ancora? Prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3, aspetta. Ora, ora, prova. Ma parla un po'. Attenzione, Gianni, se mi ascolti cambio. Franco. Tu sei la critica di stanca, prova. Franco. Ciao T, buonasera e auguroni, perché non ci siamo sentiti. Ah, auguroni anche a Giovanni, perché non ci siamo sentiti anche con lui. Ti avanti. Brava, ero Franco, non mi ascoltate. Ti volevo chiedere, ma voi quelle cose meglio se ne vendi? Sì, che ne vendo T, perché? E allora fate un salto domani, mettivi. Domani ti sono un po' incasinato. Dopo c'ho roba da finire, la devo finire per forza domani. E via, ti prendo il caffè e ti do quattro righe e poi mi fai sapere, dai. Vabbè, dai, faccio di tutto. Comunque ti do un colpo di telefono prima di scendere. Allora, dovrei essere qua a casa. Ti do quattro cose che mi interessano. E poi mi fai sapere più presto che sono con i fritti. Va bene, riprendi Giovanni. Ok. Come ascolti di chi? Sempre bene, già sono da boccarti ascoltandoti, già va bene. Io scrivo. Aspetta, ma che finisce tutto molto molto bene. Senza problemi, non te la posso mettere per forza. Vediamo un pochino adesso. Beh, io ho leggermente abbassato il mic gain. Ino, tu come mi ascolti? Non dico nasino, ma quasi. Poca amplificazione, non è corposa la modulazione. Questo non è nato per la M, lo sto usando io, ma non è fatto per la M. Ottimo. Allora dimmi che. Mi racconti quel rumore già sotto quando mi urla che fa sotto, i picchi del parlato? Ma io ho un 501, un FM501, cosa vuoi pretendere da me? E il microfono che è buono, quindi come ascolto non è che ne ho. No, se io ti questi ti provo a parlare, fra. Da, adesso non parlo, adesso sto parlando. No, quando non parli qualche cosa sotto la sento, ma non so definire cosa possa essere. Due sono le cose, o è la lavatrice o è il pozzetto. No, ma c'è, allora, no, quando parli in tutti i dettagli, capisci, come ritorno della frequenza, ecco, questo sotto qua, la modulazione va bene, perché va bene, ma è questo ritorno lì non mi piace. Poteva essere sua. Da parte mia no, non arriva così. E allora no, qualcun altro bu. 9:20, Gianluca arriva 9:15, 9:10, quindi. Qua non è Luca secondo me. Sì, io secondo me non è un problema. Molte volte capita, ci sono i bambini, se tu fossi un bambino. Sì, e chi sei tu? Buonasera. Basso, chi sì? Guarda, il QRM riesce a tapparti, non riesco proprio a capire cosa mi hai detto. No, negativo, non riesco a prenderti fuori. Mi è sembrato poc'anzi che hai detto se c'era Luca, così è. Guarda, sì, livello 00, riesce a malapena a muovere lo smitter. Non riesco a ascoltarti con molta alta fatica, non riesco a capire cosa mi stai dicendo, quindi scusami se non riesco a capirlo, però. Basta, riesco. faccio, magari ho risposto. Va bene, vai, signori, vi saluto, sono andato giusto perché ero così, sono andato a gara a spegnere la radio più che altro. Franco, allora, ci conto. Sì, ti chiamo. Se ci faccio un salto veloce, intanto se non piove domani sono in moto. E poi ti faccio sapere. Vabbè, dai, ci sentiamo domani al limite. Ciao, tutto il compressore, prova adesso. Vabbè, dai, riprendo io, dove saluti per me, va. D'accordo, dai, fammi uno squillo. Se non sono per il telefono, non è colpa mia, perché la domanda non sai qual è. Nel caso ti aspetto, va. Vabbè, ciao a tutti, divertite, va. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao, buonanotte. Ok, allora, ho capito bene, ma adesso sei sganciato, cioè? Sì, adesso ho sganciato e ho aperto il compressore. Per sempre, giuro. Il microfono? Che mi dice? Ascolta, ma sai che era così tutto a posto? Sì, sì, tutto a posto. Avevo da un paio di giorni, aspetta che tu quindi si è pinto. Oh. Avanti, Gioia. Fino a stasera, ma la prova della sua foto, poi ho mollato un po', c'era cosa delle 817, però le 817 a pochi watt. No, io non posso fare sempre una parata, tanto che diciamo che non ci dedico più di tanto, non ho molto la bassa frequenza della vita, ma loro molto in bassa frequenza. Questa frequenza mi stanno chiedendo qualcosa, ma per la fisica, cosa mi chiedere? E qualcuno ce l'ha anche accantonato, non si credere, qualcuno ce l'ha anche accantonato. Mi ricordo di un vecchio Lincoln, ma... Perché non la smetti di mettere la portante? Un numero 7, un vecchio Lincoln. Questi non ho sentito più nessuno. Lo sai cos'è? Certi mi sono proprio di fuori a lavorare. Sto dormendo, è rimasto lì. Quando ho parato, questo non l'ho più sentito. Perché? Avanti, ti puoi entrare? Sto presto. No, è qualcun altro, non è Franco. Avanti. Sono io. Cioè, lo senti tu? Che te ne fa sopra? Fra. Sì, noi dovevamo dedicarti le mangi e dico. Sto dicendo la maschera di collegato comunque la calata, sì? Sì, no, è tutto a posto, non ho toccato niente l'altro giorno. Sì, no, c'è un ritorno, però non dico. Ma è un leggerissimo rientro, è verso lo microfono, adesso quella, sono sicuro. Sono sicuro. No, non cercare niente nella parata perché non c'entra nulla. Qui sta rientrando e ci sta facendo quel problema lì, lo conosco, è ubriaco quel problema che ti torna. E così, e poi Gioia, c'è qualcuno che sta chiamando avanti? No, ma lo senti questo Gioia? Una portante forse tu, non mi dire questo. E questi fumi arrivano allora, molte volte parlano dalla Germania, no, dall'Alemania, e li sento perfetti, li sento perfetti. Capito, mi arrivano anche 5-6 qua, in alto, e beh, in questa lì. E arrivano, e li confondo un po' della sede locale, magari in un'altra lingua, non ha più. Tu l'hai sentito? Sì, l'ho sentito, mi arrivava a 7. Mi arrivava a 7? Allora fino a quella parte. K, è quello che era a voce. Ma se ne chiama lo tuo a vedere? Che vuole entrare avanti, buonasera. Devo entrare adesso? E chi sei, buonasera. Ottavio da Ottava. Ottavio da Ottava. Ciao Ottavio, buonasera, ben sentito. In compagnia di Gianni e di Boele da molto lontano. Vai Giovanni. Sì. Io non l'ascolto. L'ascolto a filo di QRM. Proprio zero. Comunque ben sentito Ottavio da Ottava. Ho capito che c'era qualcuno, ma non riuscivo a puntare, cioè non ti ascolta di sicuro, se non arrivi qui, sicuramente alla fine ti arriverà il tempo e via. Cioè... Se esco sul corso, va presto. Beh, vabbè, pazienza. Sì, è fatto, con questo. arriva a un po' così. Oh, arriva un pochettino basso. Vediamo un po', Ottavio. Sì, avanti. Non si può prendere un accidente, ragazzi. Non si può prendere K da Cantemighetta, fra. K, no, scusami, Ottavio, dove sei in macchina? E forse per quello che non ti ascolta. Non arrivi tu da Gianni, capito? Non ti ascolta. Arrivi a livello QRM, quindi molte volte lui parla e tu stai parlando. Troppo basso, sì, in macchina è già. Oh, vedi. Questo l'abbiamo provato quell'8000 S, quel Magnum. Quello che tu era con l'amico Fabio, appunto. E niente, quello praticamente vuole rifarsi per la cirurgia, praticamente grazie da parte sua fratellina anche naturalmente, vuole rifarsi per la cirurgia in quel finale. Praticamente in stanti di gira e in dettaglio pericoloso. Ma non c'è il problema di dov'è? Cacchio di commutatore. No, manco, fai in autofilazione, l'ho visto bene. Fai in autofilazione. Quando ne sono stati i finali così, no? Praticamente le placche tendono a rossare, sì, sotto quelle razze, ma quello era un arrossamento sconsiderato. Poi a colpi si dava stabilità, però si capitalizza. Non ho proprio circuito stampato, ho scucchiato per la valvola. Sì, certe fabbriche l'hanno fatto, sono riusciti a cessarle un po', però quello lì è una vecchia concezione. Hai variabili che sembrano di cui potete bambole. Ah, non sta da lì, non sta. No, comunque, niente, le valvole sono buone, la camera è buona, infatti l'ho invitato a prendere una configurazione diversa. Cappa. Vabbè, l'importante è che cioè, si riesca a risolvere il problema, poi già lo sai, già problemi non ce ne sono. Qua già ci abbiamo di tutto, poi se ti seguo un altro trasformatore già ce l'ho. Ma che stavo dicendo così? Perché si sta ricaricando un bicchione? No, mi sto dire che un paio di 509, capito perché? Per la CDL non riesco a trovare quello che è il tuo dubbio. Ho chiamato a fare perché con un amico che gli ho detto criminale, come gli ho detto, sono per il campo dell'attacco. Allora, adesso ti dia praticamente una marea di fissa famiglia tra la zona proprio. Ma la fattoria, ma che cosa ne ti capisco? Allucinante. Ma se deve tenere conto, perché quelle valvole sono introvabili. Quello è il problema. Quello è il problema. Adesso sto portando il problema di Alessano, per me. Di Alessano, chiedendo fino a fuori, dalle tue fuori. Ma io mi sembra che ne ho qualcuna, però devo cercare. Aspetta un attimino. Ah, dai, va bene, scusa. Dove è? Posto! Ecco! Allora, ci stiamo sentendo poco in questo periodo, io ho avuto un'influenza brutta, poi sto sempre correndo da una parte all'altra, perché però sai che io ho famiglia, quindi con il digitale terrestre praticamente sto correndo da manca a destra, a sinistra, centro e salti in lungo, mi sto facendo di tutti i colori, adesso lo dico, aspetta Allora, lo piloto con 5 e me ne dà 80 metri puliti quelli. Sì, sì. 50, 70 di modulati, là. Una cosa del genere, capito? Il 3 però è un elettrovoice, il traduttore è un elettrovoice, il 3 l'ho progettato e realizzato io. Niente, no, lo spiego molto con poco perché gli affari, tutti gli affari KHS in AM fanno schifo, lo sai? Ciclopedia stamattina. Sì, no, questo in banda me ne vende circa 250, dai 200 a 250, cioè, ma è un finale che ho praticamente realizzato io, sempre con questi Ah, non va bene così, Fresco, fresco. Un attimo. No, no, ma vai all'otto. Sei entrato, Franco, avanti, fra? Sì, Giovanni, ho due. Due, però non so in che condizioni sono. Dovrebbero essere buone dall'aspetto. Sono qui. Lasci la parte così. È tutto. Lasci la parte così a protezione. Apri la tua mezza facilità. Ma comunque l'ho messo in moto e allora, faceva così, no? Ero quando stavo in corso qui, sono stati di strada. Allora, due terzi che era la parte che funzionava praticamente, perché poi l'influenza. Lui da spingersi, ho visto anche di fare la scintilla dagli acidi. Spingersi lì andava in potenza, no? Solo che a un certo punto iniziava a scendere, a Emi la vedeva pochissimo, ma c'era questa sorta di ingrossamento, di differenza tra il circonditore e il lineare. Di cui niente, la gente toccava la cosa perché non andava, ma niente sconfitta di tagliarli, comunque io le ho proposto di rimediarla tutto, ricostruendo il tipo pezzo, così posso presentarlo in gamma materiale, andare a utilizzare in gamma materiale, e invece sei che sarà capissimo, capito fra, così via. Comunque aspetta, adesso ecco, se la prendi. Ah, il discorso del tuo, di fotografamento. Allora, è l'efficienza. Ritorno dell'efficienza. Lì, in quel microfono, non si è alimentato tu dall'interno dell'apparato o un alimentatore esterno? No, questo c'è un alimentatore esterno. Ecco. Benissimo. La massa di ritorno, quella che si mette collegata al computer, è una seconda massa. Di ritorno verso l'apparato, ne hai una che è la massa normale per connettere l'elettrocamera, poi ne hai un'altra ancora, ce l'hai sul pingerso di collegamento della massa lì, quella dello chassis, che fa pure sul pingerso proprio del microfono. No, quello non ce l'ho, io ho il capo di massa, vabbè, il classico PL, quindi uno ha attaccato la griglia della massa della casa. Vabbè, poi un altro discorso. Ma, allora, nella fase anteriore, l'uscita del capotone microfonico, hai un'altra massa alternativa? Negativo. E magari questi due. E ce l'hai lo schema di collegamento dell'apparato? Non sì, c'è tutto il manuale, ma non parla di masse. Non te ne parla? Sì, di non scena masse alternativa. Sì. Allora, nell'edificio c'è un percorso di traversa, capito? Perché ci scrive una meglio fa ritorno. Ma però questo percorso lì è il che fa stessa. Mi ho sentito già parecchie, che ha finito di aiuti, sentesse i programmi così, no? Ho visto che mi prefere così il collettore di massa, praticamente andava a modulare perfettamente. Questo è il primo motivo, mi diceva però faccio lo stesso motivo. Queste sono le soluzioni. Poi delle piccole capacità, dei piccoli fattori a fatti di effetti di piccolini a disco ceramici. 10.000 picco nell'alimentazione e nella discesa dal produttore. Anche lì, nella linea totalmente, capito? Puoi provare anche con un capitino di massa verso l'apparato, dal microfono, dallo chassis del microfono verso l'apparato. Lo chassis del microfono verso l'apparato. Aspetta un secondo. Dallo chassis del microfono al retro dell'apparato. Sì, perché raccoglie qualche volta, non avendo un connettore che non compre fuori, tu ti assicuro se ci vengono questi casi su dove c'è la avanzata, lo facevo anche a me qua e quindi lo gioco così. Quindi raccoglie lo cassino e poi giustamente lo riporta nella massa e purtroppo va a finire sul circuito di qualche frequenza. E quello invece dovrebbe essere praticamente isolato e accoppiato con una di quelle capacità ceramiche. Allora sì, allora riesci a debellarlo completamente. Vediamo un po' Gioele. Non ho capito Gioele. Sì, ma è un obiettivo, problema di tutto il mondo che fino a questa consiglia ma Franco è entrato. Franco non mi ricordo niente. Ah, mi sembra che stavo venendo qualcuno di lui. Ecco, dobbiamo andare. Questo mi interessa. Ha detto, guarda, se guardi il sito di Bianconi, ce ne sono più fatti. C'è 220 euro, 140 euro, 150 euro, ma più fatti sto problemi. Punto Carlo Bianconi, punto it. C'è il sito. Te lo fermo da quello. Ti fermo da la vicepresidente che hai e ti ne vedo un altro. Aspetta, che sto dicendo che le fermo da? C'è stata gente che l'ha presa lì, finali di tutte le maniere, vicepresidenti, antenne, cambio, di tutto qua. Il riparatore Carlo Bianconi, che ho conosciuto a Bologna, è una bravissima persona, ma proprio di tutto, di tutto, di tutte le persone, quello che ti serve tu chiami lì, già te lo trova lui per ascoltare adeguato e ti fermo fai la preparata, quello lì che vuole, ma chi vuole entrare che sta pensando? Non vuole fare nessuno, Franco? K. Vabbè, lascia perdere la lavatrice che si sente. Prova, gli ho provato a mettere un cavo. Ma è collegato allo chassis proprio? Sì, sì. Ok, infatti è peggiorato. Infatti è peggiorato. Allora, già è lui che sta raccogliendo. La maschera dello chassis, scusa bene, la maschera dello chassis è collegata alla massa del circuito, sì? Non lo so perché, vabbè, dovrebbe essere così, non l'ho aperto, l'ho attaccato giusto perché questo c'ha la possibilità di mettergli due microfoni, già lo sai, due cavetti, quello normale e con la spinetta. Perfetto, ma lasciamo perdere il contatto. Allora, siccome il ritorno di massa è dallo chassis che sta entrando, per quanto lui sta captando la vibrazione che la sta usando il microfono di quattro frequenze. Poi succede, quando lo chassis del microfono stesso è collegato con le piste, rientra lì, capito? Un po' come nel 160. Allora ci sono due e mettere un cavetto dalla musica, come si deve chiamare, che abbia tre cuori. Ok, uno si collega allo chassis alla massa e l'altro due, uno si dicono nella massa, come si lascia la massa del circuito stampato, la prima del circuito stampato, a quelle dello chassis. Hai compreso quello che ti voglio dire? Sì, sì, ho capito, ho capito. E questo te lo dico per esperienza maturata, perché per me è capitato personalmente e non c'era verso, non c'era verso. Allora, separando completamente il circuito di dallo chassis del microfono e usando una massa alternativa collegata alla massa dell'apparato, allora io sono riuscito, ma per intanto, una modulazione perfetta, come vedi, ho risolto il problema. E questo è un alimentatore esterno, regolante, della 0,17 volte, cioè questo è un altro regolante, questo è un 3DS così. Senza alcunissimo problema di sorta, senza, perché non ha nessun tipo di variazione, questo rimane costante, poi c'è funzione di IA, poi c'è temperatura si sviluppa. K, sì, io sono staccato. No, io sto usando un 28 per della Nisi, sempre switching, l'abbia anche questo, evidentemente c'è qualche problema. Ecco, un'altra cosa che ti volevo dire, signor Presidente, all'ingresso dell'alimentatore dovresti metterci due UK200, una su punti di negativo e dopo le due distanze collegarci un 100.000 picco, un 100.000 e un 10.000 picco, in parallelo. E elimini buona parte della frequenza rientrante, perché può essere anche che sta rientrando un'alimentazione tu questo non lo stai vedendo, dovresti mettere praticamente uno strumento con dei fiuti corti e vedere un pochino se ti si abbassa la tensione. Ho capito. Poi però adesso provo. No, adesso non va bene, va, no. Un altro momento lo faccio. Ci provo là. No, oh, quello vuole spazio, perché è stato senz'altro. Vuole spazio senz'altro. Io la prima cosa che ho fatto è preso il capo del centro, buttate dentro, no, mi rientrava lo stesso modo anche lì. Praticamente ho eliminato tutte le possibilità di ritorno. Perché si è sentito, no? Faccio l'altro tempo, quindi. Ma anche senza compare niente, ho visto che Venerino c'è lo stesso, quindi. Ho anche fatto un rientro dall'alimentazione. Appunto qua. No, mi stava chiedendo appunto di Gioele se avevi apparati da vendere. No, ho già dato tutto. Ah, li hai già dato tutto? No, perché mi sembra che no, Vulcano era per il suo tutto. E vabbè. No, ha già venduto tutto Gioele. Numero di telefono di Bianconi. Allora. Ma è bene, non hai possibilità tu di andare in un sito internet? Sono 10, scappa! Un attimo, stanno parlando. Aspetta che ho acceso il computer, te lo dovrei avere nel computer il numero. Aspetta un attimino. Vediamo un pochino, comunque ha fatto qualcuno con un break, avanti. Anzi, oh, va, Francesca, pure. Aspetta, bra. Ah, mi ha girato un numero l'altra volta. Non è che mi devo guidare così magari diciamo settimana entrante. Faccio... Ah no, o vendo direttamente nel negozio tuo. E vieni direttamente nel negozio mio, oppure te lo fai dare da Cosio. Ah, così ti hanno veramente più. Dato tu c'hai il numero suo, no? Sì, questo è il numero suo, certo. Capito? Aspetta, lo fai nell'angolo. Tu di solito, tu dici sì, così quando mi incontri a casa dice qua. E tu dici sì, solo. Allora io ci sono di solito dalle 8:30 fino all'1, salvo interventi in uscita, perché poi devo mollare e andare a fare gli interventi. Ma se non mi chiami prima. No, vabbè, ma come fare da chiaro, lì, cose di bene, capito? Sempre blocco. Quello vado entro, mi calcio che facevo per gli spettacoli. In campistica, quindi no, ma stavo pensando, mi ricordo più la figlia, è un diverso, capisco, ma non mi la metto più. È a Marsiglia. Aspetta, il punto, che cosa c'è vicino? La scuola. La scuola professionale? No, la scuola elementare, che dopo va dietro, come che arrivi nella mia via, arrivi in una piazzetta, in questa piazzetta c'è una scuola che dietro va, c'è via Duca degli Abruzzi. Come si chiama la colazione? Kemar. Kemar? C-H-E-M-A-R, Kemar. K-E-R-A-E. K-E-R-A-E. Kemar. No, perché era da, perché si chiama Marsiglia, comunque io vado lì e c'è di poco. No, sto pensando il punto più facile per arrivarci. E lo dice a me, ti accompagno io, non c'è problema. E no, andiamo assieme, lì. Andiamo assieme, compreso. E quando andiamo a figlio, ci incontriamo, diciamo che per l'altro giorno e mi accompagni tu qui. I telefoni se sono disponibili, andiamo e via. Senz'altro, senz'altro. Grazie Natale, gentilissimo. Poi ti consegno il vostro obiettivo, va bene? Erika, se non ho problemi, da. Quando sei disponibile andare da Franco, che ti accompagno io. Bene, bene, dove sei Natale? Sono arrivato a casa, là sono in macchina, ci sto rientrando. Sì, sì, va bene. Lo proseguo, se magari faccio il video così. Aspetta, che guardo il numero di Bianco un attimo da dare a Gioele, un attimino. K, ok, e io ne approfitto per salutare Natalia. Ciao Natalia, buonasera, auguroni. Grazie, forte, forte. Rientro? E io adesso sto rientrando, eh. Sono già spostato su casa. Ok. Adesso ci sentiamo dentro, va. Sto scendendo. K. Mi... Gioele. Natalino esce un attimino che era arrivato a casa, riprende da casa Joey. Non penso dalla macchina, perché lui è in un fosso. Aspetta che riprende da casa, vediamo un po' se lo ascolti e se ti ascolta lui. Joele? Allora, prendi nota. Ancora di Natalino. Ma è sceso un attimino che riprende da casa che l'ha rifatto. Questo numero a Joele, così anche lui si attenta a buscarsi un buon accaduto, così gli do anche la sigla di qualche apparato del centro. Joele, allora guarda, se metti un 747 oppure ti fai dare un TS2000, comprati un apparato aggiornato, perché gli altri oramai sono tutto vecchi. Se riesci a trovare qualcosa di aggiornato, ricordati, oppure un D, con DST, non può fare senza DST, sennò ti ammazza di rossare. Allora, 051-50-4034, lo ripeto, 051-50-4034, Carlo Biancone, via Candellara, posizionamento postale 20-40138 Bologna. 051-50-4034. L'orario è 9:13 dalle 14 alle 19. Sì, no, ma prendetelo aggiornato. Prendetelo aggiornato, 15 sopra almeno. In seconda mano lo trovi, 400-500 euro, ma buono, Lo trovi, lo trovi, a lui lo trovi, permutandoti quell'altro lo trovi. Se lo permuta, non c'entra niente, lui se lo permuta, glielo dici com'è, gli dici quanto ti può dare e ti compri l'altro, capito? E per ciò che ti sto dicendo, riprende l'aggiornato, da tutto dal software, te lo fai dare già ampliato, te lo fai dare già aperto e sei a posto, capito? Non prendere roba vecchia che poi non riesci a risolvere nessun problema, che tu non hai dimestichezza con quelle cose. Ti conviene un apparato che sia, no? Gestibile dal software, capito? Non ti conviene, non va bene, se non riesci a farlo modulare, che non compiti tu e fai un casino, fai. Non serve, ti devi prendere un apparato che sia gestibile dal software, capito? A modo che ti possa fare carriere point, equalizzazione digitale. Non è così semplice, Joel, non è così semplice, dai detto a me. Quindi un apparato che sia gestibile dal software, sei a posto, ti porti i parametri di equalizzazione, fai tutto quello che vuoi. Diversamente non ce la farai mai. HD. Marco. K. Dove l'hai sentita, Giorgi? Sì, lo sento, ma a tratti. Ehi, sta uscendo con 10 watt, pochi watt, quindi vediamo con HD se è entrato. Natalino se l'ha preso bello, ma l'ha pagato 600.000 lire nuovo, 600 euro nuovo, 600 euro nuovo, ci aspetti ti faccio vedere il modello. Bello, bello, bello veramente quello di Aesi, gestibile dal software, con tutti gli optional. Adesso lì quando rientra l'ha preso da elettroprima, hai visto Gioia, 600 euro, non è molto. Come? Ascari. Sì, era in macchina, ma adesso non ce la fai a sentirla, perché in una zona più caduta, sì, adesso già rientro, non capisco il modello, non mi ricordo qual è. Qual è il modello di cui è nata mia frate, lo ricordi? Del nuovo non lo so. Il nuovo, capito? Nuovo. Adesso appena che rientra. Capito che ti conviene il nuovo, 600 euro. Quello di cui se lo vendi a qualche privato. Non è molto umile, cioè, però, ma è una cosa seria però, quello però va anche tu, va su e giù. 857. 857 della IAI giù, Lio, cioè, Giulio, sei tu? Sì, sono ascolto. E se lo faccio di lui? Sono a letto già. Ah, da letto stai parlando? Sì. Ah, comunque. Ui, dai, già va bene. Aspetta che come... Dimmi se ti dà una cabina. Allora, prendi nota, prendi 857. Guarda che il mare cruzi anche a seconda mano di 857, mio. Oddio, è a 350 euro, 300 euro. Allora, vediamo un po'. E l'altro è Giulio, no? Giulio però è a letto, sta riposando. E ha risposto così. Ah, Cassari. Sì, parliamo sempre. E noi ci sentiamo tutte le notti qua. Io praticamente da qui sono anche di schioppo. Giulio, l'hai sentito, Giulio? No, non arriva qua. Non arrivi, no, Giulio. No, fermati qui, sul macello. No, fermati, no. No, non farlo portare a Giulio, che sta succedendo a letto. Il diretto ti sembra una salinata lì. Diventa. Non fai così, prova a chiamare come tutti i Bianconi, che vedrai che ti dà un sacco di consigli, c'è navi, roba. Sì, perché quello tu lo puoi mettere anche in macchina, capito? Tu devi puntare un apparato così, lo puoi usare anche in macchina. È inutile che ti prendi un apparato che tu non lo puoi usare in macchina, io come lo so, se poi ti serve lì, è un macello. Chiama quello lì, già ti consiglia lui. Non ho capito cosa ho detto? Ma c'è a forza caricata. Allora, però devi avere l'apparato, giusto? Quello è autoaccordante anche, quello ha l'accordatore dentro. Difficile. Comunque puoi trovare perché l'accordatore interno, per quello che ti sto dicendo, prenditelo che abbia l'accordatore che sia di quelli moderni, se no ti incasini, capito? Perché sono pronti da usare, più o meno sono pronti quelli. Ma cosa ti ferma, ma cosa ti pensi che siano impegnati a fermare, ma se lo metti quando riusciamo a urlare, non pensi che dopo come in giro, non appoggi da una parte, no? Non vedi tu, comunque lo 817 secondo me è l'unico, c'era un mio amico che è bellissimo, quindi devo fare il finale, devo fare a fare 5 passi. Però ti dico una cosa, guarda, è bello quella palettezza, bello più, è a metà di uno in una parecchio CP, è piccolino. Uno così lo strofi, quello lo sai quanto lo strofi, a 350 euro lo strofi, come niente, poi ti stanno proprio dando via, perché la maggior parte hanno capito che non aveva potenza, li stanno vendendo così. Vabbè, ok, gli apparati si trovano, come niente, così ti dico, nata di serenzato. No, non è rientrato, grazie. Sì, meglio è un bel apparecchio quello. Ciao Giulio, salutoni. Ciao Fra. Ah, Borotto, da niente c'hai dietro. La televisione. K, guardati la televisione, guarda. A meno. Giù. Dimmi già. Giulio, mi senti? Sì, ti ho risposto. Ah, e facciamo testa a testa noi. Asco, me la fai una donna di legna? Sì, perché no? Sì, perché la bambola doppiata è si rompe, capito? Se invece me la fai di legna, posso farti ginnastica, capito? Però la puoi smodata come ginocchio. Te li può fare. Molto ne può essere una donna così in Mogano. Non so quanta cosa è Mogano. Un casino. Ma lo lavorate ancora? Tipo Massone, a quelle cose lì, l'ho lavorato? No, Antonio, no. Ma avresti più, vero? Ma cos'era un velenosa? Cosa faceva male ai polmoni? No, che ti mandava il coso, come si dice? Nel naso, nel pelle del naso, se ne dilattava ti faceva sanguinare. Ah, ecco. Ho capito. Questa è la mansugna. E io non sentivo valerà. E sapevo di dare il un pochino. Francus. Hai visto la macchina di Gigi che è bella, fra? E io. C'è una bella macchina. È bella, figlio, di strada. È veramente una macchina. Quindi sono una cassa, stiamo parlando così. Di via vicenda. Faccio vedere una cassa, una cassa. E dimmi, Gio. Vabbè, non ho capito. Quello? Quella scheda. Vabbè, non ho capito bene. Comunque... Ebbè, non esiste assolutamente, ci sono i circuiti di stabilizzazione e di controllo del VFO, caresti in danno nero. No, ma quello lo potete usare così, quello da usare così, E te lo puoi spaccare. No, non lascia stare, che fare niente. Ah, ti consiglio una cosa, lì giù non ci hanno dottrina anch'io, capito? Non andarci. Non andarci, dammi retta. Non andarci. Io sono sempre qui con amici. Lascia stare, molla tutto. Io quando si ricorda questa frequenza, qui sto cercando gli amici qua e su quei filippini credo che non ci parlerò più. No, a me niente, sinceramente parlando, sono una persona tranquilla sotto l'aspetto. Però non ci vado più, non mi interessa più e non ne voglio più neanche sentire. No, no, assolutamente no, non mi interessa, non provo più interesse per il passano che stavano facendo. Ma poi c'è una discriminazione continua, ma non li voglio più neanche sentire, ma non, non mi sposto più da qui, capito? Io con gli amici qua parlo, tranquillo, la sera entro, saluto Natalino, Franco, Giulio, che sono amicissimo, e tutte le persone che sono in frequenza, ma non, no, niente cantina, troppo di Giulio di che puta che vende. Che puta che vende, caro mio. Io poi conosco persone da sopra, mi hanno anche chiamato, ci hanno mano richiamato all'ordine, capito? Sempre meglio non abusare, perché anche se uno le spalle coperte non deve abusare, ricordatelo, capito? E quindi anche se io ho una forte personalità su, però non voglio creare problemi, basta, sono anche rispettoso in quel senso, capito? Ma non me ne fregherebbe, io andrei lì, sarei con te per andare lì, ma che te lo fa fare? Ma che siamo tutti qua la sera? Cosa ho detto? Non ti ho sentito nulla? No, vado da qui a 635, poi basta. Cappa, parole sante, parole sante. Ah, io ho disastro, io ho disastro, non mi interessa. Nonostante che dovete lasciare il coperto, c'è persone di un certo livello, però non abuso mai di offrire la disponibilità della gente, capito? Perché poi mi sono già attaccati, siccome io non abuso, perché sono responsabile, quindi non me ne frega niente. Ma non mi importa, perché voi mi hanno preferito, capito? Ma se ti piace di sapere la mia vittoria, sono stato un diritto di corpo, delle nuove tecnologie, poi tra l'altro sto facendo partito, quindi così mi piace molto. Sì, infatti, già qui quando c'è gente tranquilla qua, rispetto per me è il massimo. Sì, no, ma... quindi non c'è la possibilità di vedersi, no? Ci si mette nel caffè, il caffè, e quindi non vorrei che poi magari dovessi andare poi da questa persona a fare gli scongiuri, anche se loro lo sanno che sono casinista, però non mi conoscono sotto l'aspetto della persona insistente, ecco, perché quello che danneggia le persone è la testardaggine qua. Sì, sono d'accordo. D'accordo con te, ci abbiamo le stesse idee. Sì, la testardaggine rovina la gente. E tu la porta sempre a buttare via danaro, perché lì comunque certo, lascio tutti quando è informato e non è perché sono ignorante, proprio per aspetto, sarebbe una cosa voluta che insistesse, ma come ne ho volato, quindi è un pochino, io ho trovato proprio questo, si è rianimata, si è riattivata forza da delle persone, diciamo così, fanno a radio. E quindi nulla, adesso noi approfittiamo della situazione per continuare a chiacchierare tra dentro. Tutto io, vediamo un po' se mi sta una carina. Nata? Sì, ci sono. Buonasera ancora. Buonasera. Ma io e lei mi intende? No, non lo intendo. Già, non lo sento a Gioele. Ma è vero che tu sei in bocca per filo rosso lì. Gioele, lo senti una carina? Un'altra mia che si sente poco poco ma non si capisce niente. Non lo so dove neanche questo Gioele io. Quindi non ti so dire. Ma già lo sai che condizioni sono. Allora, la mia domanda è questa, è a un latizio. Sì, sì, sì. Il nome di Deo ha riso, perché non si è andata a me che ci fosse sollato, quindi lo porta a Barrico ai due. Non penso, lui sa un'altra cosa, mi scusi, una felicità che la felicità si fa lavorare. Avanti, che... Allora, staccalo in, perché non siamo qua. Ci siamo tutti, capito? Ci siamo tutti, cosa vuoi chiacchierare, noi siamo sempre disponibili. Siamo finiti, Franco, con l'informatica è abbastanza avanzata. Io sono studente di elettromeccanica, informatica, fisica, matematica e tutto quello che tu vuoi. Poi, Natalino, lì se tu mi chiedi come fare i discorsi per le signorine, se stai già fisico. Giulio invece fa melanzane e si legna. Questi di donna li legnano. E poi vediamo, non c'è problema. Quando vuoi far sentire, non le dici. Perché io questo periodo sono impegnato. Quel macello. Ah, ci sentiamo insieme e vediamo un po', ok? Sì, Gioele, che ti ascolto. Non c'è problema. Ciao, buonanotte e buona giornata per domani. Ci sentiamo alle prossime. Piacere di averti ascoltato in quella zona. Non problem. Ok. Vai Natalino per i saluti che Gioele sta chiudendo. Nata. Ciao Gioele, io purtroppo lo sento. Non so se ti sente a me. Vai già. Ok. Allora, ci aspettiamo le prossime punti. Ciao, ciao. Siamo salutati tutti da qui. Il Natalino per il Ronco, così. Basta, lo vedi, ti saluta con me. Ok, ok, ok. Quindi, settimana entrante, fissiamo una camicia. Magari, ci restiamo dall'amico Franco. Quindi c'è la media del corpo, non c'è. Abbiamo un pochino di organizzo, questi due giorni di autorizzazione. E poi ci facciamo un ultimo incontro. Come incappano proprio? La fanno venire a studio per appassionare, devi sapere, raga. Siamo andati un ginastiemo, senza problema. Anche questo. Siamo andati giù, siamo andati in genitiva a studiare in stazione. Ti ha detto? Con le vedie si è subito l'inflazione. Che senso? Non hai capito, Natalia, non hai capito la partita. Non l'ho capita, no. Spiegamela, spiegamela. Se sono mezzo di trovare. Non è che tutti. Lui ha sin vera. Già te lo dico in verità. Va bene, là. No, stavamo giocando con Giulio, devo sapere. No, ma adesso per la strano non c'è problema. E la parola per dire che si rilassa, ma perché la stessa lunga, sì, piano. E da lui ha, poi si aveva tutta la stessa lunga, la calista. Quindi i picconi, gli altri, che saranno da lui, il processo. Sanno di un po' di un carico. Non ti preoccupare, con Giulio non c'è problema. E io scrivo, non mi affiguro. No, no, ma già ho visto che sta cantando. Sì, c'è la mano, è di nuovo, non c'è problema. Ciao, va. Giulio già c'è la mano, il piede, tutto, vero giù. Sì, numero 40, fra. Carta grande è quello. Quello fa male però. Non molto. Comunque, chi è di destra o di sinistra? Ah, Giulio, quando fai così ti sento io. Carissimo. Sono Giulio. Dimmi. Stavo pensando, no? Tutti davanti con le teste si sentono amici sessuali. Stavo pensando, una modifica. Allora, per la bambola che ho detto di legna, me la puoi fare con quella mandolina? E come no? Anche il violoncello. Oh, però, c'è un discorso da fare, poi la prova a ferro per quello che non ha un discorso da fare. Io mi posso, voglio sapere se il periodo è molissimo, soltanto che lo chiedi con questo libro, perché questo è quello che voglio dire. Era quello, tanto che non comprare la vernice per fare la modifica di quel colore per gli anni. Vuol dire userò quella. No, la può magari. Sì, Maria, anche lì vuol farmi a quando mai. No, no, ma poi io voglio un nero particolare, no, no. È un marrone sempre più sacca di capitare. È proprio quella che devo appunto comprare per fare il lavoro a gialli. Ma chiamala lo stesso che colore di Paggiano, si fa tutti i colori, di naranja color cacchi e tutti i colori, di naranja viola ma chi ci assomiglia, di naranja nero ma chi ci assomiglia, di naranja che si narra la granospora ma che è il cucchio, questo è il colore di ma che cosa la già fa? Perché deve essere cangiante, capito? Dunque assume tanti intonovità. Cangiante? E vabbè, andiamo, ma così la famiglia hai la stessa confusione, il capo confusione, ragazzi. Oh, io, come tu. Ma anche per chi mette? Ma, no. Io, sono qui, io sono qui, la incanica. Non se ne parla più. Sapete che... Proprio i ragazzi un po' con gli studi, adesso tranquillo, non penso. Se non c'è una cosa franco, così le due sono cigane. No, qua ascolta, sì, ma questa storia della sicurezza, tagliare del Troy, il programma compagnia bella. Ho eliminato solamente Nordo perché mi ero detto le scatole più per Nordo con la modifica del calcio sistema. Hai cercato per esempio il virus, leggero un virus per manipolare sicurezza in un ufficio dove ci sono anche documenti importanti, Franco, dimmi un po'. Il panda? Sì, il panda, internet e security. Ok, per cui ti chiamo direttamente da lì, sarebbe mai. Siamo da lì. No, vabbè, io naturalmente io uso il sistema e vanno avanti, però guarda, Peter Norton mi ha rotto, perché il discorso con lui modifica i saldi del sistema io non ho mai tollerata. Cioè, capite, io non riesco a capire, è di una bravura eccezionale, eccellente, però poi perché lui modifica così il file? Perché? Perché andare il programma a uno di lui, poi c'è tutto in balla, In balla sì. Purtroppo loro hanno una sua concezione di progettazione, una loro concezione di progettazione abbastanza valida, però allo stesso tempo è un po' incasinante, perché loro fanno standard, capito? Però effettivamente quello che ha il cliente all'interno del PC loro non ne tengono conto ed è sbagliatissimo. Ma guarda, mi sono trovato già parecchie volte in situazioni che non prendono tutte, no? Create da Norton naturalmente. E ho dovuto, vabbè, poi io elaboro un registro, non so se ci male il binario, chiamo le varie voci e modifico le parametri a modo che appunto non abbia intervento che si fa il sistema. Solitamente mi scrive proprio il punto di programma. Corretto fare tutto prima, quindi film, eccetera, non ancora. Proviamo a vedere come si registra, questa cosa qua. Quello che io voglio è far rimediare da 3 ore, proprio per non avere palle dalla, per salvare naturalmente i dati e per formatare. Poi Norton, quando si smette pesante, sono molto più controllato discretamente. Ho lavorato bene anche con altre attività di stabilità su questa intervista. E con il tipo di configurazione sto adonificando i clienti. Praticamente ritorno al sistema della sintassi con un leggero antivirus, un antivirus e si trovano bene così, io credo li ho mostrati bene, proprio perché poverini erano stupidi, tutti degli interventi su quei test, quindi mi hanno chiamato, poi risorto tutti in Franco, non so se sia mai capitato per caso così in prigione così continua. Ma non è capitato ogni giorno. Sì, ma io dico, una resistenza allucinante. Ora ho fatto questo sistema del paracadistico di clienti della mare. Riescono adesso con questo sistema di piccolo cancello, che c'è il piccolo cancello, che quel cane si morde la cola, è assente il piccolo pulito di cervello, e si trovi sempre con persone che non siano problematiche. Almeno io e anni che ho avuto questo sistema, tutti i veterinari, cose, ormai tutti. Va bene, veramente, va bene. No, no, volevo sapere solo se fanno adesso cosa per la WP, va bene. Non ti ricordi, va bene. Capo, sì. No, quello di quest'anno è abbastanza ottimo. La verità, quello dell'anno scorso era abbastanza pesantuccio, la verità, forse più del noto. Però era affidabilissimo, cioè la macchina rimaneva pulitissima, però era pesante. Invece quest'anno l'hanno migliorato, diciamo che molte sezioni li hanno migliorate molto e quindi è rimasto, cioè rimane molto più leggero rispetto a prima, rimane molto più leggero rispetto al noto, fa molte più cose. Ascolta, volevo chiedere, come ti trovi con vista? Benissimo. Ok, no, non ho una caratteristica così, non so come si trova, io ho fatto quella fiaccata, ma voglio provare una cosa ulteriore, per l'interazione d'attiva, sto cercando un pochino, devo un pochino creare per quello, per non importare un inizio, per non importare un po'. Però no, sto cercando di capire, ma il recinto come si trovi su vista? Guarda, non c'è nessuna differenza. L'unica cosa che c'è rispetto a XP normale è che praticamente prima cosa devi creare l'utente amministratore. E vista non ha, per default nell'installazione non ce l'ha, quindi lo devi creare tu e darti le impostazioni, perché se no non fai niente. Vabbè, chiaramente non riesci a aprire nulla. Sempre dalla parte delle applicazioni, vero? No, c'è proprio un sistema un po' complesso per creare un amministratore sotto vista. Sarà sempre, comunque ci sarà la guida in linea, non è che sono problemi. Vabbè, cosa passaggino adesso, non è che mi limiterà l'accesso agli sistemi, tu mandi dove? No, ma se te impostazioni non te le fa fare, proprio ti chiude le porte, perché per lui sei un utente... come che sei un utente limitato, mi capito. Ma poi l'altra volta ho aperto il registro, si vede che era già configurato quel vista lì. Era già configurato, aspetta il cliente che mi ha aperto tutto, mi ha fatto fermata il registro, non ho avuto problemi. Così via, ma il passaggio comunque ufficiale da dov'è? Il passaggio ufficiale non ce ne l'ho negato. Io ce l'ho perché sono proprio un operatore e quindi certe cose le danno, però dobbiamo richiedere, noi facciamo corsi, ci spiegano, cioè facciamo un passaggio, capito? Non è un problema, se glielo chiudo io a vista. No, ma ecco, se questa mi fa è una cosa, più che altro, sostanzialmente, io faccio responsabile, però siccome questo sono persone che studia appena tantissimo, 4 anni, e quindi adesso non dico di cambiare questo vista, quindi uno è già aperto, probabilmente io non ho già impostato, questo bisogna essere. Vogliamo forse riaprirlo e vedere un pochino come si comporta, impostando da appunto il servizio. Non dovrebbe essere così complesso. Quindi non detrita da fuori perché devo applicare. No, lo sai cos'è il problema fondamentale? Il problema fondamentale è che se ti si inchioda i file dell'utente, tu non c'entri più dentro vista, perché non glielo reinstalli. Sì, effettivamente questo è vero, è quello il default che devi fare. Soltanto il boot lo farà dentro alla lettura di vino. Il boot, il routine lo farà la lettura. Ma voglio capire, intanto a distanza come sono, vedi tutto com'è, poi fare due punti, la visita. Magari lo posso cancellare direttamente, aprirlo senza alcun problema, no, ma questo di capire in quale sezione è, perché se sono manager non c'entra niente, la roba è astra, no, sto pensando, la roba è di eliminarlo. No, non è che lo devi eliminare, no. C'è già, è un file di log, praticamente devi aggiungere una sezione e lui ti dà la possibilità di operare anche come amministratore, perché se tu vai in modalità provvisoria non te lo dà, cioè sei sempre come utente. Vabbè, così un pochino si riesco a verificarlo, se tu vuoi, ma ho già i riferimenti, no? Non ho guardato bene, non faccio molti riferimenti perché sostanzialmente tutti i tempi stanno usando Facebook, quindi diciamo che mi sono un paio, ma è una grazia, no, fa passare. Perché qua è per lo stesso appunto perché lì in vista è più comune via, ma c'è anche la comune di più, non c'è problema. Tanto il passaggio che questi utenti ce l'avrà l'assistenza che a loro appunto gli abilita questi programmi di fatturazione, di collegamenti politici delle entrate, capito cosa ti devi dire? No, per quello sì, il discorso è a livello di, lascia perdere i programmi di gestione che sono un'altra cosa, io parlo a livello di proprio di sistema operativo, noi che siamo operatori SDK come ci vengono chiamati, vengono rilasciati delle patch o delle cose aggiuntive per noi operatori per cercare di risolvere determinati problemi, capito? Perché noi mandiamo comunque continuamente le comunicazioni dei relativi problemi che lui fa secondo gli applicativi che tu devi utilizzare o meno. Va bene, allora io prendo vista, mi chiedo se avevo questo registro, me lo ricopio, senza l'ho vista sul rapporto, niente, è un sogno di rilassi, lo puoi capire. Eglia, no, io ce l'ho già a posto. No, mi chiedo tu, no, non importa niente. No, stavo cercando una copia, forse non sapevo mai, era per non perdere tempo. Per non stare in creare, fare, capito, sono stato, loro hanno tutti i loro programmi, questa era una cosa fatta ai privati, capito, ragazzi, clienti, che non hanno niente a che vedere con strutture pubbliche e si abbiano. Ho capito, e intanto qua, con tutti i tagli che sta facendo il governo, vedrai che, guarda, io penso che quest'anno anche gli enti pubblici passeranno tutti su Linux. Sono diventato un bordello di contatto, lavoro corto, lo scusa, ma io la non so. Allora prendo un numero. No, io ho sempre avuto un trattato l'ho cascato, però ho provato a vedere qualcosa di più facile, capisco qua. Tutta una coppia così, intanto la uso a livello sui braccio, no? Va bene. Questo. Un attimo. Poi non mi sento da giù a bocca con il destino. Coromendo a bocca di trappo va a entrare in conca di scatta 60. Lui è confidissimo su un destino. Si dimenticava lo DNA 66, non l'H manco lo vedeva, a razzo della malicolente. Ma quello è nato. Quello era uno sistema operativo fatto a metà. Era uno studio, l'hanno buttato in commercio russi, ma infatti l'hanno tolto subito. Mi sembra durato un anno. Oh, guarda. Beh, tu avevi la proposta posto, no? Ma non è mica perfettamente configurato, sono tutti i trucchi, tutti i fatti li avevo preso a registro, ma se non avevo fatto almeno, non ti dico molto, ma non centinaio di fatti glielo corretti, tutti. Guarda, perché il processore riguarda il riconoscimento dell'artista, delle tipologie di velocità importanza, del tipo di scheda grafica, quindi non va benissimo, era un pasticcio per quando massimizzarla, anche quando facevo il pizzo, non avevo pizzo, sempre di una radia che non si riesca a scusarmi di rilassarsi, ragazzi che lui ha ammato di lì, con professionale che te la vedere, perché naturalmente mi si tratta sempre di energia. Beh, con la tecnologia, comunque il sistema operativo, vabbè lasciamo perdere Visa XP, stabile in assoluto che io ho mai visto è Windows NT 4.0 server. Quello secondo me è uno dei migliori in assoluto. Grazie, ma chi ti chiama la sopra? Che può veramente la video? Ah, dai, facciamo le cose più comuni. Un ragazzo che usa NT 4 server, ma dai, non è. Ma anche per armare. Vabbè, chi non lo conosce giustamente dice no, non è così, però bisogna conoscerlo bene, se lo conosci qua è fenomenale. Linux, guarda, per settare i vari parametri, per impostazioni di periferic, è come andare da qui a Londra, veramente che viene il freddo di quell'accidente che ci disegnava. Quindi su Vito, Linux nome, tutti quello che lo mamma mia, ma non molto umana. Poi è bello, io non sono una cosa di fisica, sono detto che la cavità di fisica, prima di scorrere la registro, vado sulle voci, l'estrema, me lo mangio da lì, però è un casino, fra, che sempre cercando di capire perché non fa un sistema operativo con un buon, sì, qualche parte, va bene, asca, solo, però con un buon livello, capito, che sia quello c'ha. Visto che fanno soldi la propria cosa. Guarda, uno ce n'è, io l'ho già provato e va abbastanza bene, c'è ancora qualche cosa ma sono fesserie, Ubuntu, guarda, c'è tal di quello, è una potenza. Come si chiama? Ubuntu. Come è un sistema operativo, se tu lo vedi ti sciocchi. No, ma no, lo so io, come Linux, poi XP Professional, l'intuizione, i sistemi più commerciali, anche perché mi devo adeguare a quelli del Linux, poi non lo so, il sistema operativo non è una cosa che non è capitata mai. Guarda, quando il sistema operativo romperà le balle a vista, perché ha delle cose molto più serie di vista, e poi a parte che c'ha le icone in 3D e tu le puoi ruotare a 360 gradi, ti puoi ruotare, puoi far diventare il monitor in tridimensionale, cioè vedere le icone, dividerti il monitor in tre parti tipo un cubo e ruotartelo, dirti l'applicativo direttamente dalla faccia che ti fa vedere in 3D. Dimmi la scritta, fammi lo spiegare della scritta in inglese. Lo faccio U, inform. Bravo, inform, November, Rino, uniform. Ubuntu. Con la U finale. Ubuntu. Sembra una parola sassarese. Se tu lo guardi, è fenomenale. Io ce l'ho, se vuoi te la do. Se la installi, tu pensa che la puoi installare anche senza installarla nel PC, direttamente dal CD. Addirittura. Tu metti il CD, tu lo lanci, lavori tranquillamente, poi togli il CD e tu non c'è più niente. Mi è stato molta applicazione su questa. Ma a livello di risorse, come si comporta? Benissimo, è ottimo. Ecco, questo lo voglio vedere. Sì, ma questo. È molto complicato lì. Un cacio lì, non c'è problema. No, ma tutti li presenti che hanno fatto più sul programmatore. Parto anche da Boreano, ho scritto il programma, ma non voglio neanche passare. Diciamo che mi gioco questi problemi a titolo più che altro di amicizia, no? E purtroppo va bene, io lavoro, anche se come informatico ci sto, però il mio lavoro è tipico elettronico, elettromeccanico, quindi non mi importa, non ho qualche cliente consulente, così, officina, qualcuno per mia famiglia, voi insegnate a progettare, fare mia amica, sì. Io ho insegnato, adesso quelli che conosco io perché sono tutti col personale, tutti con AutoCAD, tutti preci, quindi c'è una macchina di mouse in mano. Beh, una cosa bella. Sì, non sapevano niente, io li ho provati con un 95, l'ho imparato a uscire fuori dai problemi, l'ho imparato a fare qualche cosa, anche quando potevo qualche vocina la registro, risolvo i problemi appunto. Di hardware così, no? Se no, in realtà in particolare uno è ben si è ben equipaggiato di apparecchiatura e adesso sta progettando porte, finestre, con auto, case di cucine, in certe dimensioni, una cosa bravino. Poi un giorno mi ha fatto un sacco di fatti di me da fare l'inci due, tutto lui. Natali, riprendi. su. Me ne ha parlato Antonello stasera su. Questo sistema operativo stava dicendo Franco, me ne ha parlato stasera Antonello, quell'amico mio. E di un altro, adesso non mi ricordo il nome. Ma che cosa mi chiama lo fa? Vedere Franco? Non è usuale probabilmente lui è studiato in casa. Io l'ho usato e va abbastanza bene. L'ho usato per quello che serviva a me, poi diciamo che bisogna conoscerlo un pochettino. Vabbè, ma non c'è problema. Io lo uso subito poi, a Marangelia. Tanto per lui con le mani, con 4-8 già. Capiamo subito chi è e chi non è. Campo, come si dice, la grande notte della mattina. Poi ho entrato qualcuno che stava cantando proprio avanti. Ma capito, l'ho sentito poco fa. Ciao ragazzi. Io sì. Oh, ci credo che non so cosa stava cantando, no? Però non è venuto avanti. Avanti il camperino. Troppo, ti prego. Caffo. Oh via. Potete seguirmi una bella tazza di caffè, ma mi sa che ci rinuncio, sono stato che non dormo. Non ho preso una pastiglia. Stavo ancora fatto di influenza. Ho dormito male, non so se ho dormito un pomeriggio faccio, non so se ho dormito. Non c'era brutta. Ancora a me non mi ha preso, ma mi sa che quest'anno, io sono 4 anni già che non prendo influenza. Diciamo che continuo così, ci mi tocco. Sono 20 anni, non avevo niente, ma mai nulla. Da quando avevo smesso di fumare, così, non avevo più niente. Ma niente, ma non mi ha appena beccato, infatti medicina non è servita, ma mi sono preso una pastiglia, leggera leggera, giusto per abbassarmi un attimo la costipazione e così per avere la prima avanti. No, io passo da me non è tanto migliore. Non mi piacciono proprio, non rifiuto. Vai Natali. Io adesso sono costretto a prenderle. Natali, non ti sento. Ho detto io sono costretto a prenderle le pastiglie. No, è il caso sì, si deve ricacciare. No, io le devo prendere per forza. Vita, ma tu al durante. Pressione. E allora? Poi faccio il fumatello su fumi, però. Ehi, se no dovrei prendere le cose per non fumare. No, è per me no. È una condizione psicologica che ci creiamo. Io capo per la di tutto, no? Una diafana, ma non è che sapete che non è che la prega da me, che se mi manno. La comunità, la uccide a sposare, io però non è più modo di riuscire. Ciò hanno me da me, non più fumo, come ho riassunto meglio, ma proveniente dai giardini, ma non fumo più sulle sigarette. Fumo Natali, è una brutta bestia. E a me lo dici. E appunto. Ma sai cosa ti chiedi? Io, sinceramente parlando, allora io ho pesato 62 kg, 6. Adesso ho preso 90 kg, faccio sempre il colore, sono molto robusto. Beh, Natali, ero verde, i prodotti mi stavano crepando. Vabbè, adesso vediamo un pochino, iniziamo con la funzione. La sera in giro, ad esempio, non uscivo. Evitavano data, cose, tipi per fare casate, eliminasse, ok? Eliminava lui. All'ultimo eliminato la sigaretta, come eliminato la sigaretta mi è stato tirare sul ferro, cambiare colorito, ma per lì era lei. Dove sono andato il mio amico Natali? Io se voglio smetto di fumare subito, ce l'ho butto, non fumo più. Arrivato, fammelo vedere però, non dirlo così. Anche io dicevo così in primo istante, poi l'ho fatto davvero però con ferro e a condizione. A un mio amico, con questa studia delle sigarette, l'hanno preso una notaia con polmone, che si mette tra il tasto, prima con polmone, qui, già si sentirebbe, Se per caso non l'ha beccato su cancro a un limone, viene l'ha segato, viene l'ha segato e come questo si prende con un trampolto per esempio per il fiscale. E di più, come d'acqua con un pesce. E non è che fumate molto. Invece mi garanto niente di messo questa meta, viene il sorrendolo su questa cosa, questa pezza di pistacca di questo, gli aurioliti, si pistaccano dalle reni, costruiscono passaggi e crepati. E gli diamo so. Mi hanno tagliato se la crena che corre il posto, come si chiama, ma il faccio metà nuovo, questi plastica, questo della UPI, e poi niente, mi hanno passato tutto tutto, le gambe, tutto segato di cuore. Ecco, hai capito, ma c'è lì. E io ho detto il professore, ma capitaresta, 40 al giorno sono stimato. Allora quella è andata su la mai sua. 40 al giorno, eh? 40 al giorno. La molla capitaresta. Per 40 sono un bel, però, cioè, 40 sono un bel. E tu vedi cosa gli ha fatto? Praticamente gli ha strecolato per fare il figlio delle penne. Gli aneurismi si lasciano più andare, questo è stato a farmi un sacco di volte, adesso è una vita metodica, metodica regolatissima, capisci, io lo dico per voi perché ho avuto esperienza diretta con la sigaretta 20 anni fa, e con me anche i pazienti perché li ha chiusi, prendendo fuori una funzione della ticettini, fino al maledetto che l'ho diventato, senza tutto. Io guarda, sono una persona che ci dovento e ci dovento, cioè c'è della sofferenza, ci dovento, odia, no. Gli inesistati non esistono solo, adesso mi dà fastidio. Ma non sono tutti, tu hai detto bene, forse è volontà, ma non sono tutti che poi riescono, capito? È un... Hai ragione, è un coso psicologico. Guarda, io ti sono capito, no? Lui è una persona che si dice una cosa la fa. E lui, lui così, è una riportazione che ho fatto. Ok? Quindi, come se non riesce a fare la sigaretta? Lui adesso ha detto, ma io prendo la tutto, come se gli dico che lo smorta di lamento. Ma ci vuoi come ci vediamo? Dice, non sai, vabbè, allora, vediamo un pochino se l'hai buttata la famiglia. Guarda, io ho smesso due volte di fumare, ho dovuto riprendere io, altrimenti io la prendo la butto e non ne fumo più. Questo l'ho già fatto due volte. No, non stai dicendo niente. Allora, quando uno butta la sigaretta e riprende, perché è ancora all'inizio, siccome ci vogliono 10 anni per pulirsi per il polmone, questo sono lo sciacquini, non per il cuoio, ci vogliono 10 anni, a me mi sono passati 20, grazie a Dio sto benissimo. E nonostante ciò, qualche volta qualche attacco, poi mi accoda, quando mi viene, e poi mi accoda, quindi asma, stava già andando male la cosa. E ci sono passati 20 anni. Questo che ti hanno fatto, come questo lo c'è ancora l'inizio quando riprendi, ah, quello di vino buono, è quello. Quando ti piace ancora, c'è ancora bisogno. Quando invece tu non la senti come la che mi piace da me adesso, è perché sei completamente a posto. Mi è toccato l'ultima volta 4 mesi che non fumavo. Fumare sì, non fumare sì. Un consiglio, Fumiamo più. Niente, ma fa pena. Se smetto di fumare che si mi ricoverano a me. E quello che ti sei sempre lì. No, ti si sei sempre lì. Ah, questo è vero. Poi ci siete intrattati della persona, Appunto, io qui sono abbastanza calmo, poi... No, perché effettivamente psicologicamente la sigaretta ti aiuta, però... Se io mollo la sigaretta è un casino. È appagante, dici? Sì, per me è appagante, perché in determinate situazioni, per esempio, quando ci sono in difficoltà, mi fumo la sigaretta, ragiono, quell'attimo che ho la sigaretta in bocca che ragiono, riesco ad andare avanti. Se no, se non avessi avuto la sigaretta, poi... Sì, ti serve come stimolo per... Vabbè, ormai mi è importata così, ormai è importata così. Io non posso fumare più perché non mi piace più, anche tra essi. E in quell'attimo, quando mi fermo, penso che se io fossi stato, che ne so, scritto e basta, con il foglio nel caso di insulti. Porca miseria, avrei fatto certi scherzi, tipo, no? Mi sarei comprato un canadiere pieno di merda, sarei passato tutti i miei clienti, e questa cosa da sempre, adesso guarda cosa mi viene in testa, io avrei scaricato in casa, uno per uno. Vabbè, così, quella è cattiveria però, Sì, sì, no, per cattiveria, avrei preso il canadiere, carico di merda, così, guarda, io avrei scaricato il sì, ma comunque è una buona idea, No, io avendo molti soldi, la prima cosa che fai lo sai dove mai andare? Fuori, fuori, lontano da tutti, a rilasciare il cervello. Ma quella è una cosa che neanche dire me la vedi. La prima cosa è farsi mettere mal viso alle Canarie, capito? Sempre però, con punti di riserva, perché anche lui è più piccolo. 18 italiani, sempre fino a fare l'essere. Mi vedete di più volando, più collante. 18, tanto sono troppe lì. Sì, da vedere. 18 italiani, come si dice? Questa è la restrizione. Perché si scusi, no? Sono una cosa di più, si scusi con le italiane. Che si dice? Beh, immagino che si dice che si dice, ma che si dice? Che si dice? Ecco le italiane. Perché se si dice che si dice, dimmi la verità, quanto sono fai? Quanti? Ma io, no, ma Natalino, non hai capito. Questo è lo sfogo degli obiettivi. Ecco, questa è repressione, capito? Tranche niente che vediamo che non li possiamo toccare perché abbiamo l'esperienza professionale. Poi, è verità perché io sono un cagnone che ne ha fatto fedele, tutte queste cose qui. Natalino, se permetti che parte la briglia faccio danno. Lo so che stai danno, e per signor faccio il danno, è grosso, se ho fatto io guai, non ti sono molto interessato, io sto facendo due, magari tu me ne farò 50. No, aspetta, no, ma sai come ti vede? Ma quella più di 10.000 fruttandole. No, va bene, il capo di microfono lì per tenere la guzzaglia. Ti fai modula. Modula, ah, mamma mia, che bello, di così, è un orama, nata, mi dica, ma le racconta. Parla con Mula, dove sono te, mettati questo colpo di nervo. Sì, no, ma poi io, Natali, la cosa, anche tu hai avuto i clienti, no, quindi, no, la cosa più bella sarebbe proprio a 10 clienti andare a casa sua, no, andare lì alla chiesa a presentare lo sconto, capisci, di questa matrice, avere tutte le vite. Ho sognato sempre se per tanti anni, perché tu il popolo del paese, ma guarda quante cose ho fregato. Siamo molto stressati già. Abbiamo bisogno di riposo e rilassamento. Ma veramente, guarda. Troppe esigenze. Le persone hanno troppe esigenze, il tecnico riparatore acquisisce a queste esigenze, ma anche perché sono una persona allucinante. Almeno Franco fa informatica, io che sono un mondo, praticamente mi prodigo nei macchinari per la programmazione, c'è anche lì, taglia blu, malagio, ferraggio, giù, e tutte queste cose qui, estremizzabili, finali, non sempre finali da finire, tutte queste cose. Alla fine uno diventa male, capito? Si porta a sé. Mi chiede veramente calmo e metodico, altrimenti secondo me tutti fatti così che da poco un meccanico dentista di Sicilia per il controllo se n'è andato, due donne milanesi, un bambino abbandonato tutto. No, per me. Non vai a dire a come stai No, guarda, non sto pensando, sto andando a vedere, l'hanno là, sono andato. Ho fatto la moglie, ho fatto il fisco, capito io, non è così, ma chi te lo sai, non ti devo dire. E dice, non ho fatto il fisco, ah, non ho fatto il fisco, è partito, sta andando in saccorsa, ciao. E beh, uno quando si sente così stressato, alla fine quando scoppia sta andando. Lui, alla moglie l'ha scritto che una bottana. Sì, una persona, E quando mai? Perché ci sono quelli che lavorano. Ma quanti ce ne sono che non lavorano? Molti, molti già, molti. Ma adesso, secondo me, già stanno iniziando a tirare le briglie. Sì, ma è già previsto, io avevo previsto anche la mente di Napoli. Mi facevo sempre questa domanda da bambino, dicevo, ma tutta l'immondizia di certe città, dove va a finire? Questa domanda la faccio anche il professore, dice, ma non mi sembra che siano, beh, alla fine che lo farò lo sono arrivato. Gli statali, dicevo sempre, gli andrebbero a svegliarsi e qui iniziate a rimediare gli stipendi. A uno, addirittura, che era cittadinista là, l'hanno rimediato, gli stanno dando, da 1000 gli stanno dando 1100. Pagui e bene dati. Ma poi anche io ho saputo degli orari, prima per esempio tipo, se in un ente potevi timbrare, per esempio se io ero in un ufficio vicino a casa, potevo timbrare, facevo parte di quella sezione lì, adesso non è più così, adesso devi timbrare per forza nell'ufficio dove sei, in punta di casino sei, in punta di casino timbri. Ci stanno dentro dentro. Ma hanno rotto le scatole, con questa appena chi riuscito a comprarsi le scarpe. Ma se ne trova figlio, l'infermiere e il dottore Trombando, ma quando mai? È una vergogna, che ti ha trovato una donna anziana, ti dico che lo trova figlio, e tutti l'hanno rimessa per non dire niente. Cinante, va. Non so cosa dire qua. Quando sento questa cosa mi messo a bere nel cervello. Ma è così, fra. È un po' una sera, la trovati lì. Capito, ti ho detto io per non discutere. La trovati lì, ha fatto la forza. A voi, ci devi stare fra in una stanza, da lì, non c'è nessuno. Adesso sapevano tutto, o si prendevano il caffè, o quando chiamava il malato le prendevano a voci, e ti pigliano chiuso in braccio. Animali, ragazzi, ma sono una bestia. Sono una bestia, in questo caso sono una bestia. Età. Io l'ho sempre detto, c'è una massa di cani da pigliaccio, e purtroppo lo rifiutiamo della nostra età, questi si passano avanti con macchinoni, si fanno carri enormi, hai due mogli, dai, finita, 7.000 euro al mese, a lì, date per le volte più di più. Mazzanini vari. Però... Io ti dico una cosa fra, mio nonno diceva sempre, ma che mi dico male, tu da mano manco di uno, ma... E aveva ragione. Capito? E per ciò che mi insegnava, no? Ma se non ti dico una mancia di uno, ma... Ha dovuto essere con questa, ma si sta sempre presente da Viona, ma ha dovuto essere Viona, ma si sta via, ma la mi sa che hanno avuto. Oh, via, per carità. Natali oggi è me. Purtroppo sì. Signori, lo sai cosa vi dico? Che domani mattina, come tutte le mattine, come ogni domenica mattina me ne vado a lavorare. Cosicché vi saluto, un buon proseguo, vi ringrazio la compagnia e ci sentiamo alle prossime. Sì, a un certo punto vi dico io, adesso mi sta prendendo un po' di sonno, sembra che io non mi stia disturbando, tutti che me. Allora, salutami a tutti, ci sentiamo alle prossime, anche io faccio quello di sì. Ciao Franco, faccio ancora per un procuratore da bambolo, poi già, sono una vista con la carina, col capo, faccio il video di sì, magari questo è passato. Ok, ciao Franco ancora, ciao Natalino, ciao Giulio, ciao l'ascolto e buonanotte puntuali ascoltatori. Ci aspettiamo tutti alle prossime, il termine di canotte che mi bene, riesce a dormire. I nostri sogni mai vieni a nulla del cucino per pieno, di non trovo comunque, ciao ciao. Fatti voi, va bene, ciao ciao ciao, buonanotte, buona giornata per domani, ciao Natali, altrettanto a te, ci sentiamo alle prossime, bye bye, buonanotte. Buonanotte a todos. Ciao caro, noi Natali ci sentiamo per telefono, così. Ciao ragazzi, ciao ciao, buon tutto per domani alle prossime. Ciao ciao, famiglia.